dottor Walter Gallotta dell'SPDC, ospite al San Giovanni. Comunemente detto SPDC San Giovanni. Ok. Chi arriva a un diagnosi e cura? Si può conoscere la percentuale tra chi arriva volontario e chi per TSO? Certo, noi abbiamo tutti i dati a disposizione di chiunque e comunque sono dati che noi diamo costantemente alla ASP, che sarebbe l'Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio, e che li pubblica normalmente sul suo sito, quindi chiunque può andare e vedere i dati non solo del nostro ma di tutti gli SPDC. Qui davanti per esempio c'è questo qui che è pubblicato proprio dall'ASP, infatti, ed è qui Andrea Gaddini, il responsabile della salute mentale per l'ASP, e qui abbiamo tutta la situazione degli SPDC della Regione Lazio. E se vuole gliene faccio una fotocopia. Sì, grazie. Ma secondo lei c'è un aumento dei trattamenti sanitari obbligatori? No, che mi risulti no. Non c'è un aumento della follia. Non c'è un aumento. Se intende questo, no. Se intende invece che c'è un aumento del ricorso all'ospedalità perché i servizi territoriali non ce la fanno più, poiché il numero di personale si è grandemente ridotto con il blocco delle assunzioni, forse questo sì. Però bisognerebbe che qualcuno vada a mettere in relazione i due fatti. A occhio mi sembra che c'è attinenza, però non saprei dire con precisione. Cosa avviene una volta ricoverati? Può raccontare il percorso di una persona ricoverata? Quello che la domanda mi ha fatto prima. Allora, i ricoveri sono dei momenti di interruzione del normale fluire della vita di una persona, di un cittadino, diciamo così. Un cittadino che sta in crisi e che è una crisi così grave che non può essere affrontata rimanendo in casa, deve per forza di cose essere accolto in un reparto ospedaliero. Quindi il ricovero può essere di due tipi: il ricovero volontario, quando il paziente si rende conto che ha necessità di cure maggiori e maggior protezione, quindi viene da solo o viene portato all'ambulanza su sua richiesta o su richiesta dei familiari e comunque lui consenziente, viene portato al pronto soccorso, valutato da un medico se è il caso di ricoverare e quindi poi avviato al reparto. Perché dico che deve essere valutato dal medico? Perché ovviamente, come ci sono tanti pazienti che poi vedremo che non ritengono di dover essere oggetto di ricovero, ce ne sono altri che invece pensano di doversi ricoverare e che invece non hanno bisogno. Lei pensi a tutti gli ipocondriaci che ci sono in giro, no? E che non hanno bisogno di essere ricoverati, insomma, non è una patologia grave. Probabilmente fa molto soffrire, però non è una patologia che ci può portare per esempio a un rischio di morte oppure che ci può compromettere il normale fluire della vita, come si suol dire. Quindi il paziente che ritiene necessario il ricovero viene qui o viene, si fa portare qui e noi lo ricoveriamo qualora concordiamo nella necessità di ricovero. Per i pazienti invece che non ritengono necessario il ricovero ma che invece hanno necessità del ricovero, si apre il reparto per il cosiddetto trattamento sanitario obbligatorio. Allora, prima di dire come ci si arriva, diciamo che cosa è. Il trattamento sanitario obbligatorio è un ricovero in obbligo del sindaco, cioè quando un paziente ha necessità di essere ricoverato e lui invece non concorda, il medico che lo visita fa una proposta scritta, una sorta di certificato, con un altro medico che lo controvisita e concorda con il primo, questi due certificati, la proposta e la convalida, vanno sulla scrivania del sindaco e il sindaco non può esimersi da fare l'ordinanza di ricovero obbligatorio. A quel punto il paziente può essere preso e portato in reparto. Se lui ancora rifiuta e non ottempera all'obbligo di legge, può intervenire la forza pubblica. È ovvio che quasi sempre quando c'è un TSO c'è la presenza della forza pubblica, perché tutti i pazienti per arrivare a quel punto vuol dire che non hanno, non erano consenzienti. Una volta arrivato al pronto soccorso viene portato nel reparto, gli viene fatta la cartella, gli viene affidato, viene assegnato un letto e inizia la cura vera e propria. È una cura farmacologica, ma anche cure di altri tipi, di tipo psicoterapico per esempio. Non è una psicoterapia vera e propria, però per esempio nel pomeriggio facciamo diverse attività di gruppi, ma facciamo anche attività esterne, usciamo, riteniamo che questo sia un elemento qualificante nell'attività terapeutica con i pazienti. Quindi mi ha detto come trascorre la giornata un paziente tra una terapia e l'altra e qualche attività? Una visita e l'altra, la visita dei parenti, le attività nostre, le interne, qualche attività esterna quando riusciamo a farla. E... quanto tempo dura un trattamento sanitario obbligatorio? Il trattamento sanitario obbligatorio per legge dura 7 giorni, ma la legge stessa prevede che possa essere interrotto in qualsiasi momento, anche un'ora dopo che si è fatto all'ordinanza del sindaco, e però può essere anche prolungata per tutto il tempo necessario, senza un limite definito. E chi lo stabilisce il necessario? Una cosa che non le ho detto è che il medico che la visita fa la proposta, un altro medico della struttura pubblica fa la convalida, sì, le ho detto, il sindaco emette l'ordinanza e tutto va all'ufficio del giudice tutelare che controlla diciamo che le cose vengano fatte a dovere. Se il paziente ha il diritto di dissentire e può far ricorso al giudice tutelare contro l'ordinanza del sindaco e quindi contro il TSO. Il giudice a quel punto istruisce un vero e proprio piccolo processo, cerca di capire chi ha ragione e poi stabilisce se l'ordinanza è valida oppure no. Ma non solo il paziente può fare ricorso, anche i parenti, gli amici, chiunque. Se ha motivo di ritenere che il TSO è ingiusto, può fare ricorso al giudice tutelare. Senta, sono sufficienti i fondi erogati? Assolutamente no. Le dicevo prima che i TSO durano 7 giorni, per finire la domanda di prima soprattutto, però non hanno un limite né inferiore né superiore. Personalmente ricordo di aver fatto tanti anni fa, quando lavoravo in un'altra parte, un trattamento sanitario obbligatorio che si è rinnovato di settimana in settimana fino ad arrivare a 9 mesi di ricovero. È stato un caso unico, ma è stato anche molto bello, perché era una donna ricoverata in una clinica psichiatrica da 15 anni e che viveva come un animale in questa clinica. Era mezza nuda, mangiava le feci, veniva utilizzata dagli altri utenti come schiava del sesso praticamente. E era in una condizione aberrante proprio. Io l'ho tirata fuori da lì, l'ho portata nel nostro SPDC di allora, che era Civitavecchia, e ho iniziato una cura obbligatoria, ovviamente, perché non era consenziente questa donna, era una giovane. E questa cura è continuata per 9 mesi. Dopo 9 mesi siamo riusciti a trasformare il TSO in TSV, cioè il trattamento sanitario volontario, e dopo qualche altro mese l'abbiamo mandata a casa e restituita alla famiglia, non alla clinica, dove stava da 15 anni. Che ne dice? Vale la pena tu continuare per 9 mesi un ricovero? Beh, magari non a stretto contatto con chi ti fa da specchio e peggiora la tua situazione. Sì, ma certo, ogni caso è a sé, non è che c'è una regola fissa, è per questo che la legge ha lasciato dei limiti molto ampi, in modo che caso per caso si debba decidere. Molto difficile questo, perché la legge, lei mi insegna che, cioè, può essere a larghe maglie, però c'è un discorso sul fatto che appunto quanta biologia, cioè quanta genetica c'è nella malattia mentale e quanta è la follia è una risposta alla società, alla collettività. Quanto bisogna ascoltarlo sto folle, insomma, oppure bisogna ascoltarlo tanto, molto, anzi sempre troppo poco, e quanto più ne abbiamo tanto più va ascoltato. Anche quando stanno zitti vanno ascoltati, anzi quello è il momento che bisogna fare ancora più silenzio ed ascoltarli. Ma ascoltare non basta, bisogna dargli anche il diritto di dissentire, il diritto di parlare. Ecco, a questo proposito, lei cosa pensa del consenso della cura? Come si fa a conciliare l'obbligatorietà con il... la necessità, quando si mette di essere il bene? Questo è di per sé un paradosso quasi irrisolvibile, se lo vogliamo vedere da una parte o dall'altra. Il problema è che va vissuto caso per caso, momento per momento. Io in ogni momento posso dire è meglio che rimanga ricoverato, è meglio che esca dal reparto, a seconda di come vanno le cose. Cioè, non è risolvibile in assoluto. Il paradosso è risolvibile solo nel caso specifico. Quando mi viene un paziente che è in preda a un'agitazione distruttiva per cui si è tagliato la gola e vuole ammazzare i familiari, e io non posso mettermi a fare tante disquisizioni, è ovvio che devo proteggere lui e devo anche proteggere i familiari, quindi in quel caso io cercherò la sicurezza più che il diritto alla salute, ma là dove non ci sono pericoli, là dove il paziente non manifesta idee così drammatiche, allora io devo cercare di conquistare quanto più possibile la fiducia e il consenso da parte del paziente. A quel punto io toglierò di mezzo i problemi della sicurezza e mi dedicherò esclusivamente ai problemi del cittadino malato in quel momento. Che rapporto c'è tra personale ospedaliero e pazienti? Uno A? Siete in sottonumero? Se sì, perché? Che provoca? Una domanda così semplice ma anche molto complessa. Il personale... anche per riprendere una domanda che ha fatto prima, vede, noi veniamo da una storia centenaria, il manicomio. Prima della legge attuale c'era il manicomio ed era l'unica risposta che si dava al disagio mentale. Una persona poteva avere problemi con la famiglia, col datore di lavoro, con la propria sessualità, con i propri deliri persecutori, qualsiasi cosa, l'unica risposta era l'internamento in manicomio. Cioè la diversità nella società non poteva essere concepita. Chi era diverso veniva chiuso. C'è pure chi ha ricoverato omosessuali perché li considerava folli. Ecco, non ci dimentichiamo mai che veniamo da quella esperienza. Attualmente la società è molto più tollerante, riesce ad accogliere anche questi suoi figli diversi, non fortunati, ma non sempre e non completamente, c'è sempre uno stigma che li tiene un po' distanti. Il paradosso è che l'ospedale psichiatrico costava molto di più del servizio territoriale attuale, cioè del Dipartimento di Salute Mentale. Quando abbiamo chiuso gli ospedali psichiatrici sono stati creati i Dipartimenti di Salute Mentale, che sono quegli organismi di ogni ASL che servono a rispondere alle esigenze, a tutte le esigenze dei pazienti con sofferenza psichica di quel territorio. Per cui se un paziente deve essere curato a casa c'è il centro di salute mentale, se deve essere ricoverato in un momento di crisi c'è l'SPDC, il servizio psichiatrico di cura, se deve essere riabilitato va al centro diurno, se deve essere posto in una condizione di maggior protezione ma che non sia ospedaliero c'è la comunità terapeutica, se ha problemi abitativi c'è la casa famiglia, il gruppo appartamento, quello che sia. Quindi ci sono varie risposte a tutte le esigenze ed è questa la grande differenza il manicomio era un'unica risposta per tante esigenze, il dipartimento dà tante risposte per tante esigenze. E quanto più un dipartimento ha possibilità di risposta, ha un ventaglio di risposta, tanto più quel dipartimento è efficiente, è efficace e risparmia i soldi della collettività, perché un cittadino malato costa molto di più di un cittadino sano. Cioè un ricovero costa più di... che non la cura a casa. La cura a casa che funziona costa molto di più di uno che sta già bene, e quindi noi dobbiamo fare in modo che i cittadini stiano meglio e vadano a lavorare. Non è un paradosso in questa società? Non con la nostra... con la nostra legge. Cioè, voglio dire, ci sono milioni di disoccupati in Italia, mi sembra che dare, no? Cioè, voglio dire, dare una vita. Tutto un paradosso, anche le donne hanno meno lavoro degli uomini, eppure la Costituzione dice che siamo tutti uguali. E allora perché le donne lavorano di meno? E perché le donne sono meno presenti nelle istituzioni, nelle dirigenze, in tutti quanti? Capita di dover contenere persone violente per sé o per gli altri? Mi sembra che mi ha detto di sì. Sì. Purtroppo sì, questo è un reparto che ha fatto della lotta, non solo la lotta allo stigma, ma anche la lotta alla contenzione, una priorità. Siamo passati da un'esperienza, quando c'erano altre persone a dirigere questo reparto, prima che venissi io, in cui il disagio psichico era curato con una psichiatria declinata in vecchio modo, e quindi si legava molto, si contenevano le persone a letto per molte ore, anche per giorni interi. Io sono venuto qui nel 2006 e con una prassi costante, giornaliera, fatta di tanti piccoli passi, ma senza imporre niente a nessuno, perché, come diceva sempre Basaglia, bisogna convincere, non vincere. Siamo riusciti a diventare uno degli SPDC che lega meno di tutti nel Lazio. Noi abbiamo anche un'altra difficoltà, che è questo è l'unico SPDC aperto rispetto a tutti gli altri, che sono chiusi a doppia mandata, diciamo così. Come lei ha visto, non c'è una grande recinzione. No, suona. Suona, si entra, si esce. No? Gli altri invece hanno chiusure molto, molto forti, molto nette. Non dico che sono dei carceri, ma insomma quasi. Questo ovviamente ci complica la vita, perché i pazienti si possono allontanare facilmente. Però siamo convinti che trattenere i pazienti contro la loro volontà è molto meno terapeutico che non trattenerli convincendoli che hanno bisogno di essere curati, e che certe volte non dico che è meglio farli scappare, per carità, è sempre bene tenerli e assicurargli la cura, però in un paziente dove non si rischia né il suicidio né l'azione violenta contro cose o persone, quasi è paradossale dire che è meglio che vada via che non che rimanga, soprattutto se la cura fuori è migliore della cura dentro. È vero che l'elettroshock è una pratica che non è mai stata smessa in Italia? Non è mai stata vietata, non è mai stata abolita. E che ne pensa? Che dovrebbe essere proibita. Cosa procura? Procura delle lesioni cerebrali dimostrate anatomopatologicamente, anche sul piano clinico, persone che hanno fatto uso continuativo di elettroshock hanno grossi problemi di memoria, ma anche con la singola applicazione, il paziente che fa una singola applicazione ha un problema di memoria lì per lì, poi recupera, però non si sa quanto. Può darsi che non sia il 100, ma sia il 99, e poi dopo un altro shock, un altro 1% se ne va. E comunque è vero che dopo molti shock si vede all'anatomia patologica, cioè alla visione proprio del cervello fatto a fette, e nella funzionalità del cervello, quindi le capacità non solo mnemoniche ma anche cognitive diminuiscono. Senta, mi aiuti a fare questo assioma semplice semplice e poi la lascio perdere. Allora, mi sembra di poter capire che la malattia mentale è molto complessa perché comporta la diversità di ciascuno. Esatto. Già rendersi conto che esiste una salute mentale è un passo avanti per un paziente. Ah, certo. Ok. Se facessero anche l'operatore sarebbe ancora meglio. E questo è quello che io mi chiedo, ma è possibile che gli operatori non si facciano tante domande? No, vede, c'è un'istituzione nazionale che è l'università che insegna la psichiatria e nessuno gli dice come la deve insegnare, che cosa che deve insegnare. Diciamo che sono autoreferenziali, pensando di essere loro i detentori della scienza. In molti casi ci sono dei professori molto bravi, devo dire, che si aggiornano e sono onesti nel dire che l'esperienza italiana è la più importante del mondo nel campo della salute mentale. Se lei considera che in tutti gli altri paesi esistono i manicomi, solo in Italia non c'è. Solo in Italia siamo obbligati a curare diversamente i pazienti, senza chiuderli. Bene, però c'è una parte dei professori che tutto questo lo ignora, lo dice con superficialità, occupandosi solo di specifici problemi, diciamo, della didattica tradizionale. Che cos'è un disturbo, che cos'è una sindrome, l'anatomia patologica di questa, la cura, le psicoterapie e via di seguito, l'epidemiologia e quant'altro. Dimentica però di spiegare tutto il resto, la storia della salute mentale in Italia, che ci dà il quadro complessivo di come bisogna concepire l'aiuto a queste persone. Guardi bene che non è solo una frase che spunta di politica, ma è qualcosa di molto pratico, scientifico e molto pratico. E io ritengo che sia giusto che il padre di tutto questo, che è Basaglia, e che è un po' misconosciuto in Italia e nel mondo, dovrebbe avere, non dico il premio Nobel, ma almeno la citazione al premio Nobel, dovrebbe essere candidato al premio Nobel. Lo hanno dato per i postumi, alcuni postumi l'hanno dato, bisognerebbe darlo anche a Basaglia. Torniamo un attimo. Qualcosa di veramente grande e rivoluzionario che ha fatto. Torniamo un attimo all'assioma semplice semplice: meno soldi ai servizi, meno servizi sul territorio, meno prevenzione, meno relazione perché meno personale, meno relazione per il disagio mi sembra e per la diversità mi pare che sia il grimaldello. Il bisturi dello psichiatra. E l'irruzione massiccia della politica nel bene della persona, quindi riduzione della relazione, della cura, della psicoterapia, aumento massiccio dei farmaci. Mi sbaglio, è così? Sì, lei ha detto bene, solo che non è l'irruzione della politica, anzi la politica ci ha dimenticato i pazienti, è l'irruzione dei partiti casomai. Ma non la politica, anzi quello che noi facciamo è dare dignità ai pazienti, che questa è la cosa più importante. La libertà è terapeutica e per libertà si intendono diritti civili, esercitare i propri diritti civili, quindi lavoro, casa, anche fare politica, la rappresentanza politica. Se a una persona gli si toglie la rappresentanza politica diventa un cittadino di serie B, tipo un extracomunitario. Senza documenti. Invece no, noi dobbiamo fare in modo che questi nostri cittadini abbiano i nostri stessi diritti e abbiano rappresentanza, anche perché le loro esigenze sono diverse dalle nostre e loro devono rappresentare la loro esigenza. E quindi benvengano tutte le associazioni dei familiari e le associazioni degli utenti. Quindi una mancanza di politica è una riduzione a patata bollente tra... diminuisce la qualità dell'assistenza complessiva e quindi aumenta il disagio dei pazienti e l'abbandono dei pazienti in casa. Mi confermi questa cosa che c'è un aumento degli psicofarmaci? Io da qui dentro devo dire. E le CSM per esempio non le risulta? No, francamente non mi sembra che ci sia un aumento di psicofarmaci da parte dei medici, li usano un po' come sempre usati. Da una parte c'è un uso migliore perché esistono farmaci molto più selettivi, cioè colpiscono la sindrome in modo più preciso e con effetti collaterali minori, quindi diciamo che abbiamo strumenti farmacologici molto più eleganti, precisi, sottili. E dall'altra però devo dire che no, stavo seguendo un altro ordine di pensiero. C'è l'aumento del costo dei farmaci. Una scatola di Zyprexa costa 140 euro. Sì, una scatola, diciamo, un'iniezione di Zipadera, che è lo Zyprexa intramuscolo, mi pare che costa al dosaggio massimo 500 euro, una iniezione. I farmaci moderni costano molto di più, però costano meno dei farmaci per esempio per l'HIV o antitumorali. Allora perché non ci si scandalizza per quei costi e per questi invece ci si dovrebbe scandalizzare? E lo Stato deve pagare tanto quelli tanto questi. Casomai spendiamo un po' meno soldi per l'esercito, compriamo meno armamenti, teniamo i carri armati un po' più fermi dentro le caserme senza fare esercitazioni, senza sparare proiettili all'uranio che costano ognuno una cifra esorbitante, e forse potremmo spendere qualcosa di più per la sanità e anche per la salute mentale. Va bene, grazie.